dici, qualcuno su 10? Su 10? Ah, è Natale. Chi è avanti? Sono Cristian, piccolino. Tutta fischi stai uscendo. Aspetta un attimo, adesso? Lo stesso, deve essere, c'è qualche filo che sta toccando nello spinotto. Sicuramente forse l'antenna anche. Se è stazionario ed è amplificato, il microfono è capace di sì. Il microfono è un AM95. Il radio come sto uscendo io, che sto usando un baracchino piccolino di quelli Intec, che me lo devo mettere in macchina. Volevo sapere com'era la radio. È la pulita, perfetta. 5 la radio, Sì, radio 5. K, grazie. Adesso stai fischiando? No, adesso no. Dai, tengo il microfono nel microfono. Dai, che adesso mi scendo a Cagliari, dai, fammi un giro. No, vai a Cagliari. Eia. Voglio fare una passeggiata a Cagliari, mi sto scendendo adesso, perché? Almeno ti pigli il caffè lì a Cagliari. È poco, ma sicuro che prendo il caffè a Cagliari. Oh, signor. Guarda quando innesco, Natalì. No, adesso innesco non ce n'è. Adesso sollevo ancora un po' di più. Adesso sì. E così no. Così no. Lascialo così. Ok, lascio così, dai. Ah, quasi più della metà. Evidentemente è troppo e allora fischia per quello. Sto usando l'M95 della ZG. Cosa vuoi ti dica? Se la CDB fruscia, magari c'è stazionario. No, lascio così, no, non stazionario, lascio così, dai, così va bene. Cazzo. Così faccio anche una modulata a Cagliari. Ok, questo è normale il microfono suo, No, già va bene come radio, è pulita, perfetta, non... va benissimo. Cazzo. Adesso l'ho attaccata l'antenna sul tetto per vedere come andava di radio, capito? Così con te mi confondono anche, come ti dicono, mi vedono pure. Cazzo. Questo qui me lo metto in macchina, allora, già va bene. Così, punto, ce l'ho io, la mia è grigia, la tua è grigia. No, la mia è bianca. Allora ci confondono, dai, adesso va bene, dai. Cazzo. Andare. Questo qui me lo metto in macchina, vuol dire già va bene. Va bene, ha voglia, ma la truffa ce n'è? Non è stufa. Io devo mettere la truffetta piccola sul sedile, per poi me la metto. No, io non ne ho stufa. Me la volevo buscare, ma non ne ho trovato. Io già la trovo, adesso mi trovo la truffa, me la metto anch'io sotto una truffetta piccolina da 12 volts. Cappa, andrà bene mela. Guarda, se lo trovi un 747 per me. Poi quello voglio prendere, pure io. Poi voglio fare una modifica con la ventolina sopra, li metto anche per sicurezza. Non ce n'è bisogno per il 747. Ah no, allora va bene, dai. Ho visto che c'è già la batteria della mia macchina, è 45 ampere in originale, la mia è già da 60 ampere, gliel'ho messo a figurati. La mia invece è da 80, perché la mia è diesel. Anche la mia è diesel, la mia è il multigenico. Gliel'ho messa da 80 ampere io. Io ce l'ho da 60 ampere, gliel'ho messa adesso. Adesso da 70 gliela metto. Cazzo. Comunque sono contento che va bene questo apparecchio. Oh, già va bene, a voglia che va bene, va benissimo, guarda. Un microfono amplificato ci vuole, va benissimo. Microfono amplificato, bicio di Dago. Va bene pure questa voglia, se amplificato in macchina non conviene mai. Poi se mi hai riconosciuto solo schiacciando la portante vuol dire che la radio già è buona, dai. Beh, minimo, la portante è la portante, la sacca del microfono è riconoscibile da chiunque. Vabbè, ma vuol dire se mi ha riconosciuto, ho detto solo CQ10 e basta. e mi ha riconosciuto. Il tuo segnale, è particolare. Come? Ognuno ha il suo linguaggio che è particolare, si conosce subito la persona. Aspetta che mi cerco la staffa adesso, così me la metto in macchina. Già c'ho l'antenna magnetica. L'800 vai. L'ho pulita bene, adesso dovrebbe funzionare bene in macchina. Ma io ce l'ho sentito un piccolino, devo mettere a mezzo, ma già va bene, dai. Aspetta qui, un attimo. Sì, dai, ho fatto la staffa, andata lì. E aspetta un attimo che la devo cercare. Vai, vai. Cristian, sì. Caccia già con le donne. Cristian. Bravo. Esco stanotte io. Stanotte? Ce l'hai fai di bello? Ero circo, ando. Bella gara. E cosa... E quale circo lo fai a tu? Via Grazia Redda. Oggi. Ando a cantare. E dove il circo Via Grazia Redda? Non sai, da... Allora... Qui c'è la pizzeria a Corallo, sai? Ma dove c'era la scala prima? No, entra un cavo, molto molto più giù. All'inizio è Via Cazzaredda, sale un po' più giù al 44. Ah, forse ho capito. Bene, bene, anche lo sapevo io che c'era un circo. C'è la pizzeria a Corallo, ma appena più su e trovi loro. Cappa di rosmetro, manda Benevedo, e qui te ne vai a cantare, no? Qualche volta canto pure io. Benevedo, fai bene, canta. C'è il karaoke. Il karaoke c'è. Eia, e tu. Io ho già riposo, oggi è sabato. Eppure io sono che riposo, oggi travagliato un bel cazzo. Sabato e domenica, ma due giorni liberi vi aspettano. E beh, se mi viene il bagaglio stasera già ve l'ha andato, non ti preoccupare. Ah, quello è poco ma sicuro. Ah, io per lavorare vado sempre. Se bisogna di là però. Di là bisogna, però sono passati, il problema è quello. No, da me è diverso. Da me mi tassano pure l'aria che respiro. No, da me è diverso. Da me ci sono i blu. Ne tassano. Quelli tutti in più sono tutti per me. Cavagala, beata a te. Ma il vostro lavoro diverso. E si conferma. Va bene, nessuno hai sentito oggi, no? Negativo, da là, da su non sono entrato perché oggi erano nel torrente, ero in bocca a farvi dare un baracchino. Andai torre di vendi. Sì, oggi è meglio che abbiamo lavorato. Se no, in chi vede di là, un comune, no? Giustamente, meglio così. Cappa, ma voi non ne usate bombola in casa? No, io c'ho il gas di città. Ah, tuo padre all'epoca aveva messo quello. Mi si conferma, messo la caldaia e tutte le cose. Ma prima per la V. Prima prima c'ero poi la stufa a gas io, prima prima. Non so che avere la bomba là, per cucina, avevo poi la stufa a gas. E come mai? Poi si è truffato e aveva fatto il gas di città, aveva tolto le bombole e mi ho preso la stufa a cherosene. A Zibro? Zibro e va a cherosene. Ho capito. E poi... io ma la stufa a gas fa se manco ubriaco. Anche quella che io non fa odore a tu, cioè va bene, è scalda. E da chi le prendevate le bombole? All'epoca le prendevamo quando c'era coso, ma quel cavolo si chiama. E il bombolaio qua giù vicino a casa, scendendo sulla sinistra, te lo ricordi? Sì. Da lui le prendevamo. Non avete mai vegliato da noi. No, Anto, era qua giù il bombolaio, era vicino. Ma qua la parete se la pigliava. Cosa tu? Scendeva lui, se la prendeva. Quello adesso ci manca parecchio me. Quello non so neanche tu se c'è la rivendita di bombole, perché l'altra se l'aveva giù alle conce, dai, dove c'è quel meccanico quando aveva sotto la Littiri. Sì, che ce l'ha. Non mi ricordo neanche come si chiama. Costanzo, può essere, no? Ma cavolo si chiama? Daniele, ma cavolo si chiama? Prima era di cosa? Di Cao Daniele. Adesso di Fabio Caro. Capito, Daniele? Ehi, Anto, aspetta, sto facendo una cosa qua. Non so come stiamo, però lo facciamo così, vabbè. Ehi, Anto. Capretto. Quello che c'ha, allora prima con i negozi erano di quello che c'ha l'assicurazione via Montegrappa. Ehi, adesso puoi sentire io. E poi dopo è passato questo Fabio Caro. Non lo conosco tanto. Vabbè, no, perché l'altro ragazzo l'ho più visto in giro. Ne ha girato Bizzini. Oh, per lui si è trovato qualcosa di meglio. Sì. Va bene. Sempre bene, mi stai ascoltando, sì, Anto. A voglia. Ma si sente il tattino? Poi si sente lo stesso. Ma si sente il tattino quando lo schiaccio? Si sente il tutto. È uguale. Se non si sentiva era meglio. No, forse l'ha dato a quello lì perché era il suo operaio, era me. Lavoravano insieme, lavoravano. Però, lui adesso è diventato tranviere, è diventato. Allora è quello. Anche quello era un altro operaio suo, lui era discontinuo lì. Lavorava a tempo, faceva il tranviere e poi portava le bombe, poi era tutto fisso e ciccia. Ma non è quella, no, perché quello che è se la piglia Dubizio. Ma sto parlando di anni fa, mia tu. Non so più quanti anni fa questa storia. È un bel po'. 10 anni fa sarà il più. Sali, cioè 10 anni è anche troppo vicino. Troppo. Ma la palazzina cos'era tua? Ci sei tu, tua madre, e metà, ma sono tutti parenti o è gente affittuaria? Tutti parenti siamo quanto? Ho capito. Ci sono tuoi zii, così. Si conferma. Una familiare quella casa, ma prima di scoprire il palazzo c'era quella, forse. Cosa tu, prima di? Di costruire il palazzo secondo me c'era quella casa. Quale casa? Quella che hai tu. Ah, c'era solamente questo piano che abito io, il piano terra, poi è nato tutto il resto del palazzo. Ah, ecco. Ma dico, quella casa era la vostra proprietà, è nata prima di quei palazzi. Sì, sì, sì, questa è stata la prima della via. Vedi che c'è qualcosa, che non è possibile che sia in mezzo a quei palazzi. E poi sono nati tutti gli altri. Vabbè, ma tu cosa c'hai, anche il garage? Gara, gara! Io. Già è buono così, già, almeno ci metti la macchina. Così te la attendi che sei mamma doia. No, io sono un'altra, quella di mamma l'ho venduta. Ti ricordi quando te la portavo fuori? Appunto non ce l'ho più. Eppure andava bene quella macchina, cazzo. No, mi aveva rotto le scatole. Perché? Perché ne stava scendendo a pezzi, intanto si bloccavano i finestrini e tutte le cose. Vabbè, ma l'avete venduta o cosa? L'ho venduta e ho preso questa che c'ho adesso. E cos'è? Adesso c'ho la 147. Quella già è bella, ma mamma Doglia non è più guidente. No. Ah, ecco. E quella già è bella, me. Cara. A pompa quella macchina. È già a pompa. Cara. Ehi, avanti. Ehi, buonasera, mi. Buonasera, Natali. Ehi. Ciao, Daniele. Ciao, Antonio. Non so chi altri ci sia. Ehi, Natale. Buonasera. Ve l'ho ascoltato. Oia, mamma mia. Adesso mi siedo, ecco qua. Pure il QRM un po' alto. E oggi c'è un po' di QRM. Io qua ce l'ho a 4. Io ho qua a 5 oggi. Mi sono sempre a 2. Io ce l'ho un po' più alto. Parola. Tanto un secondo, arrivo subito. Ok. Io mi trovo, mi sto per addormentare. Mi riposo un po' che stanotte è lunga. E beh, Natale, sta a posto. Ma bene, mi senti in stazione 2 tu? Ehi, io già ti sento bene. Cioè, pace, sono in stazione 1. Ehi, giallisco. Ciao, già va bene. E allora, Natale, sta a posto? Ehi, tutto a posto, da mettere a posto. Ma cosa? Ehi, mi ha comprato le staffe per mettere l'antenna. Devo comprare i tassili che non ne avevano. Ma perché dopo la vuoi mettere? E dammi come già ce li hanno. Che cosa, i tassili? Ehi, da quant'è? Da 18 o da 14? Sì, da 14 li metterò. Le staffe già sono, ce ne vanno due in ogni staffa perché sono staffe di quelle di lusso. Dove lo vuoi mettere? Sul tetto o no? Ho sempre in facciata. No, ho sempre in facciata, la metto. Però la metto con le staffe, no, non come è piazzata adesso. Ma cosa è? Fine, come è leggera quell'antenna? Lo so che è leggera, solo che gli metto le staffe in modo che me la posso scendere da solo, capito? Tutto il casino che ci vuole scenderne il palo adesso. Ciao, no, già te la diamo una mano, non ti preoccupare. Oh, mi sono dimenticato di una cosa. Porca puttana, me la sono dimenticata al supermercato. Ci devo uscire, va? Maronna! Aspetta un attimo che chiamo. Che rincoglionito. E cappa. E Natali, dai, io mi addormento un po', dai. Se ci sei ancora, ci sentiamo. Ci cudi 10. Sasha. Giù. Boom. Chiamalo pazzo. Dai, si può comere? No. Per bere che sei? No, ma che sedere sei? Da questa parte è Babbo Natale. Oh, Babbo Natale, buonasera, ciao. Ciao, chi sei? Qua è Danilo. Ciao Danilo, qui sguscio da Tissi. Come mi copi? Non ho capito, c'è pure il QRM qua. Ripeti. Ho detto sguscio da Tissi. Sguscio da Tissi. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9, radio 4, dai. Perché c'è il QRM sotto. È un po' disturbata la radio. Meglio la radio. Scusa un attimino. Stiamo facendo una prova a radio perché è un pochino lontanuccio e tu mi apri la quella... la radio per vedere se ci sei. Già ne hai segnali tu, non ti preoccupare. Poi se vuoi parlare parla, se no ti stai fermo un attimino con le mani e noi ci facciamo il QSO. Dici ci sei? Eccomi K. No, che ogni tanto qui si mettono a giocare, a schiacciare, a lasciare la portante aperta. E sono i burloni del sabato sera quelli. Sono quelli che non sanno cosa fare dalla mattina alla sera, proprio quello. Invece di schiacciarsi la portante, perché non si schiaccia nel naso, ancora non ho capito. Danilo, e tu da dove stai modulando? Qui è da Sassari. Ciappa. Perché sto usando una magnetica, la stavo provando un attimo, dai. Dai, anche con la magnetica già stai uscendo bene. La radio va meglio adesso? No, è sempre uguale, c'è sempre quel QRM sotto, però non è molto fastidioso. Solo che ogni tanto come si alza il volume ti sento poco. Esce poco la voce. Abbasso un po' il microfono, la preamplificazione, magari è quello. Adesso com'è? No, è sempre lo stesso, non è cambiato niente. Ciao Claudio. Claudio, sei poco di razzo. Qua che è successo? Stiamo facendo un questo fra io e questo ragazzo Dittili e mi lascia la portante aperta. Tu pensa che tu facci tu mi lasci a me. Dai, sempre certe storie, ogni tanto c'è qualcuno che fa vedere che c'è, non parla e mette la portante, l'ho visto anch'io, se no, no. Niente di che. Va bene, ciao Danilo, ciao anche a te Giuseppe, mi pare, da Guscio, da Tissi, mi pare, non ricordo, vabbè. Sì, sei in mezzo al QRM, c'è un sacco di QRM. Va bene, dai, vi lascio al vostro questione, allora sono entrato a salutarvi. Ciao a tutti e due, vai Danilo. Ok Claudio, grazie. Già ci sentiamo un altro momento, non ti preoccupare, più o meno già lo so chi è questo qua, che è un pochino alto qua, sicuramente in questa zona, già riesci a capirmi, da? Ehi, sempre da lì, non è che cambiano, sempre da quella zona bassa, vabbè, ognuno fa quello che vuole, tanto, per la gente che c'è, guarda, io poco ci sto entrando, entro a volte a salutare a chi merita almeno un saluto, giusto per far vedere che ci sono, ma sono abbastanza assente, proprio per queste motivazioni. Ciao a tutti e due di nuovo, avanti Giuseppe. Ciao, ben sentito Claudio. Ehi, sguscio, ci sei? Oh, Kappa, mi sa che è entrato Andrea, ragazzi. Buonasera, Andrea. Ehi, buonasera a tutti, scusate, credo ci fosse solo sguscio. Sì, ciao, Andrea. Ciao a tutti. Danilo da questa parte, da Sassari sto modulando. Tu invece da dove? Sono anch'io da Sassari, in via Mendola Bassa. E io qua da Sant'Orsola, ai piedi di Sant'Orsola Nord, da. Per farci capire più o meno dove siamo. Ben ritrovato, non ci avevo mai sentito, mi sembra, Danilo, prima. Oh Andrea, noto Balentetto, come ti sta arrivando? Bene, bene, Santiago 7, radio 4. Scappa, dai, abbiamo migliorato parecchio da Santiago Zero in mezzo al QRM. Ma hai la magnetica? Cappa, la tua sto usando, sì sì. È una potenza quell'antenna, cacchio. È stazionaria? No, stazionaria è zero, considera che ho staccato tutto, sono proprio con i watt del baracchino e basta, senza niente. Cazzo, anch'io sono al naturale. Cappa, no, ti sento benissimo, chiaro. E poi il segnale sei tu Santiago 8, Radio 5, quindi di lusso. Bene, avanti Danilo. Sì, quando si esce al naturale è meglio perché stai usando solamente la radio ed esce bella pulita. Adesso mi sono preso anche un accordatore d'antenna perché non riesco ad abbassare le stazionarie, ce l'ho 1,5 oggi. Ma la boomerang non riuscivi ad accordarla? Praticamente devo agire sullo stilo, il fatto è che l'ho portata un pochettino fuori dal balcone e ogni volta la devo smontare, stendere lo stilo e controllare il stazionario, ed è un casino. Mi sono preso un accordatore come quello che hai tu con le due manopoline, non funziona in potenza ma almeno non mi brucia i finali. Ma hai provato a regolare l'ampiezza dello stile? A quanto ce l'hai? A 120 gradi? Io qui la mini boomerang l'avevo messa al contrario con gli stilo a 90 gradi. No, ce l'ho a 135, che sarebbe 45 gradi verso il basso lo stilo, e poi c'è il pirolino che si estende, no? Quella specie di cursore. Io le stazionarie con la mini boomerang le avevo abbassate riducendo l'ampiezza del radiale, capito? Da 135 a 120, poi a 190, cioè a 90 l'ho messa, cioè proprio ad angolo retto, e con l'angolo retto magari uscivo di meno, però mi avevo abbassato notevolmente le stazionarie. Che ci dovevo mettere mano. E tu Dani, che antenna hai? Io ho una Game Master autocostruita, ma sono autocostruita io da solo. Ce l'ho sul testo, dal testo alla base della bobina ce l'ho a 5 metri circa. Stai uscendo di lusso, mi arrivi praticamente Santiago 9 e Radio 5. Anche tu arrivi bene. Qua mi arrivi 9-10, a volte anche dei picchi mi dai di 9-20, però radio bella secca, perfetta, pulita, 5. Avanti, sguscio. Guarda un attimo il segnale, se così cambia qualcosa. Perché io adesso ho stazionarie, adesso ce le ho un po' altine, però devo... Non sono riuscito, allora staccando il lineare, in poche parole, mi si alzano le stazionarie. È sempre come prima, ti sento, non è pulitissima la radio, forse adesso un po' peggio, ma ti sento chiaro, non c'è paragone rispetto a qualche giorno fa, per intenderci. Però c'ho stazionarie alte, capito? Non ce li ho basse in questo momento. Adesso mi sposto di un canale e provo a regolarmi un attimino. Vengo un attimino di bianco. Avanti Danilo. Aspetta, su. Dimmi. Allora, guarda che c'è una bruvoletta lì che puoi estendere o portare dentro lo stilo. Mi sono dimenticato di darti il coso. Senza sparare la brugola, prova ad estendere o portare dentro lo stilo mentre calibri, capito? Al di là dell'accordatore d'antenna. Ci vuole un po' di pazienza, ma riesci ad abbassare le stazionarie. Una chiave a brugola piccola ci vuole, adesso me la cerco. Ok, bianco un attimo. Stavo facendo le prove, ma no, non ha cambiato niente da come stavo troppo andando ad accordare, ma no. Era sempre uguale, sempre a 9 mi arriva. Però c'è sempre quel QRM dietro che lo insegue. La radio non è ottima, infatti magari il segnale sì. No, vabbè, quell'antenna è una magnetica da 1,20 m, gliel'ho prestata l'altro giorno, sta uscendo meglio ma non è certo perfetto. Secondo me con una boomerang o con una Venom si risolve il grosso dei problemi. Lì lui sta cercando magari di accordare con l'accordatore o col rosmetro, in realtà deve accordare con la brugolina estendendo, portando dentro lo stilo dell'antenna, no? Qui c'è stazionario. Penso di sì, infatti anche se con l'accordatore d'antenna abbatte le stazionarie, però non è che guadagni in potenza, perché l'accordatore in realtà impedisce il rientro, ma non è che le fa uscire le onde, no? Sì, già sto studiando anche su questo. No, comunque se mi serve un'antenna un pochino più decente, qualcuno in vendita ce l'ho. Ma non lo so. provando, lui c'ha una mini boomerang, io ho piazzato la boomerang, ma ancora la devo settare bene, proprio ieri, l'ho piazzata da ieri, quindi sto facendo un po' di prove. E là, se quando ci stufa di questo, vedi che me ne fate sapere. Ehi, AKK, no, io sto uscendo adesso bene anche come watt, ho 4 pieni almeno dal watt metto in uscita. Con 4 watt? KK, con 4 watt sto uscendo. No, io non lo ricordo manco più quanti watt sto uscendo con questa radio. Aspetta che provo a controllare che questa radio è un pochino complicata. Ci sei, Dani? Sì, sto cercando come funziona per i watt, perché questo 7100 c'ha 1000. Mi sposto un attimo sull'11 a fare una prova, Dani, un secondo solo. Sì, vai, così durante il tempo mi cerco come funzionavano i quattro, perché adesso non me lo ricordo, vai tranquillo. Attento Valentetto. Ehi, mi copi? Cappa, tu mi senti? Cappa, ti sento. Com'è il segnale adesso? Santiago 8, radio 4, un po' migliorata la radio. E adesso, guarda un po', aspetta, Si è peggiorata la radio, molto QRM. Perché ho abbassato troppo. Così? Così molto meglio. E allora lascio così, dai, se va bene lascio così. No, molto meglio. Io come ti sto arrivando adesso? Tu sei sempre Santiago 7. Aspetta però un attimo che mi sposto l'antenna un secondino, che devo verificare una cosa, Capo. Allora, ho agito sui filtri, adesso QRM manca a massarne ne ho. E non si sente manco un filo di QRM, vi sento solamente a voi. Comunque segnali ce l'avete tu a 9.10, a volte 9 picchi di 9.20. L'amico Dittili, che si chiama Giuseppe se non sbaglio, lui invece ce li ha sempre a 9 fissi. Capo, ma è migliorato nell'ultimo passaggio, la radio adesso è più pulita, non c'ha quel QRM che c'aveva, ti ricordi? Sì, però la radio è scesa un pochino più strano come voce anche. Capo, io come ti sto arrivando adesso, Dani? No, sempre lo stesso, non è cambiato niente. Sì, ho abbassato un po' le stazionare e ho messo un po' di ormoni steroidei, va? E io sto agendo sul filtro NR, che non mi ricordo come si chiama quel tipo di filtro, è stazionario e proprio adesso non ne ho per niente. Faccio ce l'ho pulitissimo la radio, silenziosa. Ma tu stai uscendo benissimo, proprio un bijou. Tu invece con quale radio sei, mi hai detto? No, io ho una PNI Escort HP-CVD5, ora proprio entry level, però è carina, funziona bene. Eccomi, controllo Andrea, controllo. Già vai bene, molto più chiaro di prima, una radio migliorata di molto. Ciao Danilo, mi senti? Sì, ti sento, adesso è un pochino più chiara la voce, dai. L'ho messa nell'angolino del terrazzino e ho abbassato un po' le stazionarie, però ce le ho sempre quasi a 2. Allora non fare passaggi lunghi, se no ti giochi tutto. Sì, KK. KK. Invece Giuseppe con quale radiometro che sta uscendo? Io con un 4005. Della Icom, giusto? Intex. Il Tornado 4005. Un Tornado, Dani. Ah, un Tornado. Perché riuscivo a capire solamente i numeri adesso, perché si sentiva strana la voce. O magari ha toccato qualcosa di strano. Si è alzato molto il QRM qua. Ma non puoi agire sui filtri? Aspetta, prova. Dai, è migliorato un pochettino, fai un altro pochettino. Aspetta, lasciala così che non è male, no? Anche da me il meglio che sei mai arrivato, sguscio. La cosa lo devi mettere dentro ogni volta? Come? Ripeti? La boomerang, ogni notte la devi ritirare. Ma la magnetica dici? La tua, la boomerang dal terrazzino, cosa fai? La lasci fissa o la immobile? No, no, fissa, me la sono attaccata adesso al momento, in modo provvisorio, alla, come si chiama, a un cardine della, quella specie di portafinestra che ho, dopodiché però la fisso una volta, però la posso portare dentro in 2 minuti se voglio. Kappa, no, già va bene, dai, almeno ci sentiamo. Kappa, no, quella magnetica alla fine è un po' lento, perché funziona bene. Kappa, va bene. Adesso vedo un po' se comprarmi quella o comprarmelo un altro, adesso vediamo, dai. Sì, al momento tieniti quella, finché funziona, poi ragazzi, ma quando ci attrezziamo, adesso possiamo iniziare anche a fare packet noi, ricordatelo. Sì, appena costruisci il circuito siamo pronti. Kappa, tra un po' ci mettiamo a smanettare. Adesso che sono un po' meno impegnato, qualche notte la passo a fare questi giochini. Danilo, avanti. Tu packet facevi circa 20 anni fa. Sì. Ottavo 98. Io ero Ita 729 della PG Group. Tu con chi eri? Con la PG Group ero Ita 729. Oh, a ricordarmi a tutti un macello, quasi tutta la Gonzaga ho conosciuto io. Calcola che ho conosciuto quasi tutta la Gonzaga, poi mi hanno mandato giù su a Roma e poi mi hanno trasferito giù a Cagliari, a Calamosca. Tu pensa quanti militari ho conosciuto, a ricordarmi a tutti un macello. No, vabbè, non ci siamo capiti. Andrei, traduci tu. No, praticamente Sguscio tu l'hai fatto diventare. Sì, 3 giorni alla Spezia. Kappa. No, io i piani l'hai fatto, Danilo? Ottavo 98. Io ho fatto 99-2000 ed ero a Macomer, fisso in infermeria a fare i vaccini al CAR. No, l'avevo già passato io il militare. No, così che ha detto Giuseppe, io ho capito solamente che abbiamo fatto il militare insieme, giusto? Avanti Andrea, che non mi copia bene Danilo. No, stava dicendo, se tu hai fatto packet con FBB, con programmi di quel tipo lì, collegare il computer alla radio e trasmettere in digitale. Ah! non si sente tanto forte, per quello è. No, se voglio lo posso collegare, ma ce l'ho scollegato il computer. No, non l'ho collegato, no. Tu in passato il packet l'hai fatto con programmi tipo FBB, quell'interfaccia. Sì, ma lo posso fare anche direttamente dalla radio io. Questa radio è... c'ha un milione di cose. Qua, se non ci credi, guardatelo, IC 7100 della ICOM. C'ha un miliardo di cose, però... riesce a gesticolarle anche direttamente dalla radio, però col computer riesce a gesticolarle meglio. A capo, quindi lo colleghi all'interfaccia, avrà una USB, suppongo, qualche altra interfaccia, e te lo programmi dall'interno. E adesso non so, dopo posso guardare anche le istruzioni, perché l'idea era quella di fare una interfaccia semplice USB e cercare di trasmettere in digitale qualche notte. Adesso vediamo con Sguscio. Sguscio, ci copi? Kappa. Sì, lo sto guardando. In effetti c'ha dei sistemi di comunicazione, però non ha proprio il packet. Trasmette in VHF con altri sistemi. Ma magari c'ha RTTY, cose di questo tipo. Ma ce ne sono diversi. Adesso iniziamo a fare qualche prova. Le prove sono quelle che si devono sempre fare. 100 euro, non mi sembra il caso. Kappa, quanto costa il gruppo? La ICOM IC 7100 costa 1249 euro. Allora sei un professionista, Dani, ma esame per la diamatore vuoi fare? Sto studiando per la patente. Kappa, Sguscio, mi sembra che ce la prendiamo anche noi adesso, anch'io ci stavo facendo un pensierino, Non ti basiuta. Pensierino, solo che alcune cose me le devi spiegare tu. Antonio mi sembra che è entrato. Antonio, tu sei avanti. Aggiunto, lascia perdere. Sì, non è così difficile, là. Non è impossibile. Difficile è difficile, ma impossibile non è impossibile. Lascia più ribaltare in parola, devi parlare in un certo modo. La capisci? Beh, Antonio, le cose combinenti. Cuccando, non so come, sogna freddo, mi sono svegliato col freddo. Madonna. Che è freddo che hai, ma se ne di la stufa. No, comunque non ce n'è tanto freddo, basta accendere la stufa e stai bene. È un gioco, ma non li voglio sentire parola. Non è che me lo faccio di qua. Mi sento da una 30 euretta e posso prima. Cosa vuoi, la radio in altro comunino? Sì, sul comunque, un altro comunino sì. Perché non vedo solo qua, che è manna. Cosa c'è? Sempre il 140? Non è grande, Vabbè, più grande della mia, sì. Però non è grande, l'ho avuto anche io. Vabbè, dai, continuate, io mi posso fare un bisolino, dai, buonanotte, ciao. Ciao, tu, dammi un controllino prima di andare in letargo. Santiago 9, sì, Santiago 9. Cappa, tu sei da Sassari, no? Cappa, Sassari, zona stazione 1, zona... qua, come ti si chiama? Zona Sassari Vecchia, va. Con la sua stazione 2 è zona... Zona alta di Sassari. Ciao, tanto, mi stai arrivando esagerato, se lo dire esagerato. È già un grido, ragazzi. Sì, è tosterone. Cappa, cappa, dai, che mi tringocco, dai, buonanotte, faccio freddo, buon. Faccio pigliato un'imbriaghiera a pranzo, grazie, mi ha fatto il effetto. Cazzo, cazzo. Ma guarda che se fai due o tre portanti ti scalda tutta la stanza, niente. No, non è casi, Ghiccio, non devo attaccare o legnare, ma è casi. Cappa, cappa, voglio andare al prossimo. Avanti, Dani. Dimmi, dimmi. Arrivava Antonio, fanno scala. No, Antonio mi arriva a 9.20, 9.30. Cappa, cappa. A me è sempre potentissimo. Ehi, dai. Dai che io mi tengo qua su bocco. Vai a freddo. Cappa, dici, vai freddo. No, Antonio già mi arriva bene. A te ti arriva molto più forte perché siete molto più vicini. Cappa, sì. Radio Valentino. Non faccio un trudio in radio. Grazie a Dio la stazione già ce l'ho. Magari stazione 2 un po' di meno, là. La stazione già non ti manca, ce l'hai a fianco. Io c'ho invece i binari a fianco. Cappa. No, perché c'ho due. Come fosse dove modulare, capito? A me da questa stazione mi arrivi bene, dall'altra un po' più lontano. Guarda, ma che dà, faccio un baracchinetto, non faccio potenza, no? Suscio, ci sei ancora? Cappa, dammi un controllo adesso, Andrea. Più o meno come prima, sempre Radio 7, Santiago 334, scusami, Santiago 7, Radio 334. È un passaggio un po' più lungo per la radio, vedere se hai guadagnato in chiarezza. Aspetta, che così sono a tre quarti e giro la manopolina così. Guarda adesso com'è. No, adesso andava bene, non è che io non sto notando grosse differenze. Capa, ti ho staccato le vitamine e tu mi arrivi Santiago 9, con le vitamine Santiago 7. Quindi c'ho qualcosa nell'antenna che non va benissimo. Beh, quell'antenna non è che può uscire bene, sempre una magnetica 9.20. Brecco. Avanti con Brecco. Buonasera. Buonasera a tutti, Marco. Scusate, si potrebbe avere un controllo di modulazione che sto operando un apparato? Cappa, Marco, qui a Tisi, Santiago 910, radio 5, ma poco amplificata, poca presenza. D'accordo, premetto che è un omologato, questo è ancora un po' da aprire. Va bene, vi ringrazio, continuate, buona serata. Ciao Marco, qua via Mendola, radio 920, 930, radio 5, perfetto, cioè Santiago, scusami. Sì, sto usando un omologato CRT, lo sto regolando e devo aprirgli la M e un po' la deviazione FM. La potenza già fatta, ma è poca roba. Va bene, vi ringrazio, proseguite, buona serata, mi sposto. Ciao Marco. Claudio. 1, 2, 3, prova, prova radio, cambio, grazie, da Giovanni, certo pettine. Sì, ciao Giovanni. Artisti, Santiago 4, radio 3. Ciao Giovanni, finalmente ti sento, ma stai modulando la placamona? Certo pettine, sì, positivo. No, finalmente ti sento, sono contento, perché ti sentivo in modo indiretto tramite gli amici. Ciao, ben trovato. Ciao, ho sentito che stai facendo dei controlli, come sono io? Finalmente, sei Santiago 9 qua. Sono 7001 Midland. Ma hai cambiato antenna? Sì, avevo cambiato antenna e ci ho messo questo 7001. Va benissimo, va. Confermo, io ti sento un po' più basso, Santiago 8, radio 334. Giovanni, mi copi? Sì, ti ascolto, ma non ho capito chi sei. Fai il passaggio. Ciao Giovanni, sguscio da Tissi. Da Tissi arrivi, Santiago 4, radio 3. Tissi mi hai detto, sì, ti sento, Giappa, io ti sento un po' in mezzo al corremme, ma ho una magnetica, quindi va benissimo. Giovanni, con quale antenna stai uscendo? È una Ringo. Con la Ringo? È una Ringo, me l'ha messa Gianluca, tempo fa. Gianluca? Quello della Feroce. Ah, ok. No, già stai uscendo bene. Ho cambiato la radio e ho messo questa 7001, una vecchia radio, però mi dicono che sta andando bene. No, già stai uscendo bene. Qua mi arrivi 9.10 con picchi di 9.20, a volte rimane anche fisso a 9.20. Radio un pochino bassa di volume, però sei bello chiaro, È sempre il problema di radio, è inutile che ne ho provati 10.000 di questi CB, ma sempre il problema di radio. Sì. Oh, me lo date un controllino adesso per la radio? Santiago 7, radio 4. Ma è in saturazione la radio, sporca, con scariche? A chi l'ha riferito quel controllo? Prova, TC Town. Beh, va bene, forse ho aumentato il QRM. Sai cos'è? Che ho notato che la batteria dell'MB più 4 del microfono scalda tantissimo dentro l'apparato. Non capisco il perché. Però può essere proprio il microfono per la chiarezza. Danilo. Dimmi tutto. Perché scalda la batteria dentro il microfono? Ma diventa bollente proprio, Quello proprio non te lo so dire. Su quello ancora non abbiamo studiato. Comunque quelli sono un po'... Magari non lo so, magari ti posso dire una cazzata, ma non lo so quello. Hai capo, no, ho paura che sia leggermente in corto qualcosa nel microfono e mi scalda per quello la batteria. Probabile anche quello. Prova con il testo e riesci a risolvere qualche problema magari. E per quello già c'è Andrea che me lo controlla, vero Andrea? Ma è strano quello lì, perché non dovrebbe scaldare, lì bisogna controllare, magari qualche condensatore può essere partito anche. Cappa, perché diventa incandescente da non poterla tenere in mano. Tu c'hai sempre la radio da tavolo, vero? Quello con la batteria, ma non ce l'hai il mic originale? No, mi sa che si era rotto e poi avevo comprato questo. No, me lo devo procurare un mic palmare così. Cappa. Ribrecco. Avanti ribrecco, un po' più amplificato, vieni avanti. Cappari, buonasera, ho mosso il trimmer della modulazione AM, dovrebbe essere aumentato un tantino, ditemi se va bene, se posso sigillare tutto. Guarda, piatissi, sì, adesso radio 5, Santiago 9, perfetto, pulito. Mi senti? Credo di essere quello più lontano, quindi arrivi Santiago 9. Mi interessa il volume della modulazione, più che altro la qualità. Hola, non vedo picchi positivi qua sul wattmetro comunque, però se mi dite che è buona io mi chiudo tutto. Allora, via Mendola è perfetta, 9.30 radio 5, ma chiarissima proprio. Meglio di prima? Molto, molto meglio di prima. Va bene, anche questa è fatta. Adesso passo alla deviazione FM e me ne vado in un'altra frequenza. Grazie ancora, ciao a tutti. Buonasera. Sì, ciao Giovanni. Noi due siamo a campo aperto e quindi io non ti posso dare risposta. Perché è come avere la radio qua a fianco a casa mia. Io non ti posso dare risposta, però di radio è migliorato molto, Tutto qua. Cappa, grazie ancora. Mi senti a me. Sì, Santiago 9, chi è? Ti stavo dicendo che io sono qui al terzo pettine e c'hai un buon picco, fai un passaggio. Ah, Giovanni, sì, adesso arrivi, oggi arrivi bene. Santiago 9 è la radio buona. Vedi un po', è un baracchinetto omologato che purtroppo non dà più di 3 watt e mezzo modulati, fischiando. Guarda, distanza dal mic 5 cm, così distanza dal mic 30 cm, per vedere se cambia, K. A me mi arrivi forte e chiaro, quello forte. Va bene, ok, vi ringrazio, a dopo, riprendete pure. Ciao Marco. Attento Antonio, ci sei, cambio. Niente, minima la differenza, comunque anche a me da la modulazione da picco, da picchi positivi, quindi vuol dire che sta uscendo bene. Ok, avanti Andrea. Lucio, stai peggiorando notevolmente, c'è un QRM che ti sta mangiando la voce, la radio è peggiorata di molto, secondo me è proprio il microfono. K. Adesso? Oh, c'è un rumore di fondo, sembra che è un po' di alternata, boh, è stranissimo, è peggiorato adesso. Guarda se adesso è meglio. Adesso è un pochettino meglio di prima. Ho tolto il microfono da sopra il baracchino. C'è molto molto meglio. Allora devo metterlo a massa questo baracchino, adesso gli attacco il filo elettrico e lo infilo dentro la presa, vediamo cosa succede. Non sbagliare buco nella presa, Sto scherzando. No, un filo elettrico dalla scocca gli metto al termosifone. Oh Piero, oh Andrea, la boomerang quanto ti è venuta? Me l'ho trovata incluso il trasporto su eBay a 48 euro. Nuova ovviamente. A paga passigillata. D'altra parte dato che è 55 più trasporto. Io ho fatto una di quelle offerte, non fai un'offerta e il tipo mi ha detto che andava bene. E secondo me anche io mettendomela qua sul balcone che c'ho tutto libero sino a Sassari non dovrei avere problemi. Vabbè dai, valuteremo. Allora, l'aveva quando sono passato l'altro giorno, la dovevo ordinare la boomerang. Non ti ho copiato, vi siete parlati insieme, avanti Andrea. Ho detto, sono passato da Fusaro, prima non ce l'aveva, l'hanno ordinata credo la boomerang. Ah, quindi la fanno arrivare? Cappa, però secondo me costa più di 60 qua. Cappa. E adesso vediamo, là. Se no ripiego con un'antenna più piccola, tipo la Mantova 5 o la Mantova Turbo, su un palo da 15 metri. Una cosa discreta da mettere in facciata. Guarda che se vuoi provare un'antenna prima di comprartela, te la posso fare prestare io. Poi se ti piace ci mettiamo d'accordo. E che antenna? Aspetta un attimino che non me lo ricordo come si chiama quell'antenna. Vai, vai, continua col QSO. Cappa. Sì, no, sto scherzando, adesso vediamo un attimino, ma guarda, a me già se esco così col magnetico che mi sentite più o meno tutti va bene, poi interessa arrivare ad Andrea per fare pacchetto e siamo a posto. Sì, ma già ce la facciamo, già ha migliorato moltissimo. Giovanni, ci sei, terzo pettine? Sì, ci sono, cazzo, ma vi sento male, male, male vi sento, è un casino di QRR. Cappa. Metti il palo, almeno dici bene. A me mi senti bene lì a Plattamona. A te sì, e agli altri che sento male male. Ma male, cazzo. Cioè, qualcuno l'ho sentito bene. Ma ce ne sono un paio, cazzo, che li sento proprio disturbatissimi, A vero. Sì, a Pompogno. Sbagliato. No, è Pompogno no, è Daniele. Cappa. E a me mi sentite bene, Hola. Tu ti intendi male chi sei sotto gli manti? No, comunque Giuseppe o Andrea, questa qua che ho io è la Sirio Signal Kepler 27. Non la conosco. È tutta quanta in vetro resina, solamente i radiali c'ha con la base in così, in alluminio. Ah, da tetto è da lì? Sì, è da base. In poche parole, 2,37 m di altezza proprio totale. I radiali sono da 64 cm e di potenza massima c'ha 300 watt. Bella, quella sul tetto sguccio sarebbe un bijou, Questa però è una Grand Play, È tipo la Grand Play, è una Grand Play. E in poche parole c'ha l'innesto tra una e l'altra che arriva a filettatura ovviamente a 2,37 da un quarto d'onda e c'ha un guadagno di 2,15 dB. Cappa, molto simile come caratteristiche alla boomerang della LEM, credo che sia 3 decibel qualcosa di guadagno. Sì, se c'hai carta e penna scrivitela così magari dopo te la controlli. Cappa, Papa, me la ripeti Dani? Questa è la Sirio Signal KEEPR27. KEEP27, ok. Poi gli diamo un'occhiata, dai. Mamma, mi sentite? Siamo uno scala, Daniele, via Italia. E le conferma, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Daniele, qui TC Town, Santiago 8, Radio 5. Va bene, va bene. Dove sei? A TC? Sì, provincia di Ossi, non so se lo conosci. Oh, veramente, forse sono stato da quella parte, non mi ricordo. Gappa, gappa. Sì, ma io sono all'uscita di Tissi con Sassari davanti. Già va bene, già arrivi bene, anche tu sei 8 qua, il segnale Radio 5, dai, va bene. Io sto dando questa specie di antenna qua e vediamo se funge, già vi sto ascoltando tutti bene, già siete un po' distanti, dai. Ehi, Gappa, dai, io vi saluto, ciao a tutti, ce ne sentiamo. E dove stai andando? A karaoke? No, farò un'altra cosa. Ma non circolo sotto casa se pare. Non le ho io sotto casa. Ma boh, a Rubiniuro. Gappa, io un attimino. Ma tu, se trovi la bottiglia, non la tirare a testate. Ehi. Oppure non la prendere per il collo, eh. Gappa, ci vieni per cazzare da stasera. Io? Ehi. No, data PG. Ti ha già finito di frequentare i bar, io. È un circo, ah vabbè, che c'entra, tanto c'è il karaoke, c'è già in serio il posto. Ma Cantonio stasera ha detto. E ve la paghi musi. Va bene, ci sentiamo, ciao. Ciao Antonio. Ok, ciao a tu. Proseguo, alle prossimine. Ciao Antonio, buon proseguimento di serata, ciao. Avanti Giovanni, ci senti? Sì, volevo sapere chi è Attissi, chi c'è? Ciao Giovanni, qui Sguscio. Ma sei tu Attissi? Aspetta, se così mi senti. Sì, è Attissi Giovanni, è lui. Giovanni, mi copri? Scoppio che sei però, quello che è Attissi, a te ti sento, ma sei Attissi, sei tu? Dammi conferma. Cappa, sono io, a meno che non ti stai riferendo ad Andrea. No, mi sto riferendo a quello che...